Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchiesi, è la seconda edizione di Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 sulla cronaca italiana, i casi di nera giudiziaria, ma anche le curiosità, il gossip, il costume, la cultura, lo spettacolo. Il 3 gennaio di un anno fa la bomba alla Procura Generale di Reggio Calabria. Oggi, come è accaduto da allora, per tutto l'anno, ogni 3 del mese, centinaia di persone si ritroveranno in strada, nelle piazze, per dare un segnale di reazione anche della società civile. Il reportage di Raffaella Calandra. Il boato della bomba, il clamore degli arresti, l'ombra delle tante minacce, i colori delle ripetute manifestazioni, i silenzi delle radicate collusioni, le parole dei primi 4 pentiti. Tutto in un anno, cominciato il 3 gennaio di 12 mesi fa, un anno passato attraverso un'inchiesta che ha ridefinito i contorni complessivi dell'andrangheta e vissuto in una regione dove un colonnello dell'arma andava in giro con la Ferrari dei boss. Le cosche erano convinte di poter aggiustare tutto e 8 politici cercavano il capoclan. Andare a casa di una delle famiglie che notoriamente costituiscono l'elite dell'andrangheta, entrare e dire vediamo di fare un accordo, questo denota, non so bene se un senso di impunità o un senso di incoscienza che mi ha stupito. Eppure Giuseppe Pignatone, prima di arrivare alla guida della procura di Reggio Calabria, era a Palermo e di mafie ne aveva già viste tante. Ma dall'altra parte dello stretto, prima di un anno fa, tutto era come se non peggio della Sicilia di 20 anni fa, prima dei segreti di Buscetta, prima delle stragi, prima delle lenzuola alle finestre. Così a Reggio, all'inizio, ha trovato innanzitutto ancora più silenzio, dice. Un silenzio interrotto dal boato della bomba alla Procura Generale il 3 gennaio 2010. Quel giorno in cui l'andrangheta decise di far sentire la sua voce fu anche il momento che accelerò il suo ingresso ufficiale nel codice penale, laddove prima era genericamente compresa nell'espressione mafie localmente denominate dopo Cosa Nostra e Camorra. Credo che con la bomba sia stata comunque un cattivo affare per le cosche di Reggio, ha ulteriormente rafforzato la volontà di tutti di reagire. Così da quel giorno in tanti sono scesi in strada ogni 3 del mese per dire che Reggio non tace né davanti alle bombe né di fronte alle minacce ai magistrati, e lo fanno anche nel primo anniversario di quell'attentato il cui boato, ammette Giuseppe Angelone, tra i promotori del movimento, è stato come la sveglia per molti. C'è stata una mobilitazione generale per manifestare il nostro no all'andrangheta e il nostro sì a una città diversa, una città libera. È stato il 2010 l'anno che ha visto una vera e propria rinascita della coscienza civile dei cittadini di Reggio Calabria, e confidiamo che il 2011 sia l'anno in cui porteremo avanti un'azione ancora più approfondita. E la voce chiara della gente, ripetono gli investigatori, è la strada principale per togliere alle cosche le sue colonne portanti, colonne che hanno i nomi delle più varie collusioni cominciate ad emergere innanzitutto con il maxi blitz Il Crimine tra Calabria e Lombardia, che è stato per i PM Regini, dicono, quello che per Giovanni Falcone furono le rivelazioni del boss pentito Tommaso Buscetta. Ma in quest'anno della svolta, appena passato, le inchieste e gli arresti si sono susseguiti, a volte anche a distanze di poche ore, e non abbiamo finito, assicura il procuratore Pignatone. Sono stati arrestati numerosi imprenditori, alcuni meramente prestanome, altri proprio collusi. Sono stati arrestati numerosi professionisti, poi un commercialista, Zumbo Giovanni, il quale è secondo noi il portavoce con la cosca di alcuni apparati della sicurezza. Sono stati arrestati un consigliere e altri candidati alle elezioni regionali, sono stati arrestati una decina fra poliziotti e carabinieri, il che significa la capacità dello Stato di fare pulizia proprio interna. Fare pulizia e niente sconti a nessuno, perché se dalla punta dello stivale l'andrangheta è riuscita a conquistare il monopolio dei traffici di cocaina, ad attraversare compatta interi decenni, a colonizzare più regioni del paese e sbarcare in più paesi del mondo, diventando la più potente e pericolosa delle mafie, e anche grazie a quella cappa di silenzi generalizzati e connivenze precise che ora comincia ad essere scardinata. E anche per questo un anno fa le cosche misero quella bomba, seguita poi da un altro attentato contro la casa del procuratore generale Salvatore Di Landro, dal tentativo di svitare i bulloni della sua auto nel garage del tribunale, dal bazooka lasciato come sorpresa per Pignatone. Ma in questo stesso anno, tra i primi 4 pentiti del Regino, c'è anche il boss Nino Lo Giudice, che si è